e denari. Eccoci ritrovati, anzi ritrovate direi stamattina a Cuore e Denari. Oggi abbiamo una nuova puntata dedicata alle nostre scelte di risparmio ed investimento, la vostra rubrica preferita del giovedì. Investire informati. Sono arrogata questo diritto, Nicoletta, oggi... Avevo il microfono spento. Hai fatto bene. Allora, Investire Informati oggi dedicata alle anticipazioni dell'IT Forum edizione 2015 che si svolgerà settimana prossima 2015. Abbiamo rubacchiato un argomento che verrà affrontato nel corso di questo evento. La settimana prossima parliamo dell'investitore al primo posto, quanto contano le emozioni nelle nostre scelte di risparmio e di investimento, ma soprattutto nella scelta del consulente finanziario che ci accompagna in queste scelte, che ci aiuta a fare un'adeguata pianificazione finanziaria. Noi questa mattina ne stiamo parlando con Luisa Bagnoli, amministratore delegato di Beyond International, una società che fa coaching proprio ai consulenti finanziari, quindi insegnate loro come approcciarsi correttamente con i risparmiatori. Sì. Banalizzando molto, ovviamente. No, non ha banalizzato. Il nostro, diciamo, focus è sull'executive search, cioè il coaching. Il coaching viene fatto sia alle aziende sia agli individui. Ovviamente chi si trova sul mercato tutti i giorni e quindi fa consulenza ne ha magari ne sente un bisogno vivo. Certo. Allora, voglio fare alcune domande ai nostri ascoltatori. Andiamo. Chi ci proporrà la miglior testimonianza su questo, la risposta che noi riteniamo più interessante? Quindi naturalmente, quindi a nostra insindacabile giudizio. Al nostro allora la donna di cuore deciderà. Perfetto. Bella. Allora ti chiederò un pochino un aiuto. Mi piace? Mi piace moltissimo. Vai. Sentite un po', allora, qual è la prima parola che vi viene in mente pensando ad un consulente finanziario? Siate seri. Vi sentite ascoltati dal vostro consulente? Abbiamo ragionato a lungo sul tema dell'ascolto prima della pausa. Secondo voi qual è il consulente finanziario perfetto? Magari l'avete trovato e così ce lo suggerite, ci andiamo anche noi. Oppure come dovrebbe essere secondo la vostra percezione, visione, la vostra sensibilità, la vostra visione, mi suggerisce Luisa Bagnoli. 800 24 00 24 il numero verde per intervenire. Ma non esiste il consulente finanziario perfetto, Luisa Bagnoli. Non esiste l'essere umano perfetto. Quindi, tranne noi, naturalmente. Ci si può avvicinare un po'. Senta, io come dicevo prima, appunto, non sono certa che i consulenti finanziari che ci stanno ascoltando, so che sono molti, amino sentirsi chiamare venditori, non è un buon termine, oggi sono proprio consulenti a 360 gradi, e però o venditori o consulenti devono essere in grado di sollecitare anche delle emozioni quando fanno il loro lavoro appunto di consulenti. Come lo fanno questo lavoro di sollecitazione delle emozioni? Devono per prima cosa puntare su questo nella relazione con il consulente o che cos'altro? Ma diciamo che con il cliente. Nella finanza noi abbiamo prodotti, no? Quindi azionario, non azionario, indici, strumenti ormai molto sofisticati. La scelta che fa il consulente ovviamente è legata a quelli che sono dei motivi razionali sul mercato, ma deve essere tarata anche su quelle che sono le esigenze del cliente, quindi le sue esigenze di cassa, le sue esigenze, che tipo di famiglia ha alle spalle, quanto, che sicurezza richiede in ogni scelta della sua vita. Quindi, come dicevamo prima, parte dall'ascolto. Per specificarlo meglio, perché può essere vago, no? Dice tutti ascoltiamo. Proprio nella metodologia di coaching parliamo infatti non di ascolto, ma di ascolto attivo. L'ascolto attivo è quel momento, quei minuti in cui tu non pensi alla risposta che devi già dare, ma veramente sei in un certo senso vuoto, perché devi togliere la tua mappa mentale e cercare di vivere la mappa mentale altrui. Noi spesso veramente pensiamo che se a me piace questo piace all'80% delle persone, e poi scopriamo nella vita che non è così. I nostri disaccordi anche familiari o al lavoro capitano perché proiettiamo le nostre mappe mentali, le nostre aspettative. Quindi bisogna mettersi nei panni e nella testa, nei famosi panni dell'altro. Del cliente, sì. 800 24 00 24. Vedo con piacere che si sono subito candidati i nostri ascoltatori ad interagire con noi sul tema di questa mattina. nel quale appunto stamattina non affrontiamo soluzioni concrete per la gestione del proprio denaro. Generalmente tendiamo a non farlo, diamo solo così qualche suggerimento di massima, perché non possiamo certo fare da questo microfono sollecitazione all'investimento, però si possono dare delle piccole regole per cercare di capire se il professionista che abbiamo davanti a noi è quello giusto, se quando la pelle parla ci dice la verità, no? Oppure... perché il feeling, la sensazione sono fondamentali, Luisa Bagnoli. Certo. Ci azzecca sempre, tra l'altro, la prima, come dire, sensazione che a pelle magari la persona che abbiamo davanti a noi ci dà? Forse dividerei fra la prima sensazione a pelle che a volte appunto proiettiamo invece quello che ci piace a noi di un altro, i movimenti, il colore dei capelli, da quello che è una parte profonda del nostro modo di pensare che si chiama istinto, intuito, e che è sempre stato mal spiegato, ma che è legato insomma a tutta una parte che le neuroscienze stanno sempre più validando, no? Quindi io credo che magari occorre dormirci una notte, tanto una notte ci dobbiamo sempre dormire per capire i nostri pochi o tanti soldi dove devono essere investiti, e il giorno dopo sentire se la persona ci è piaciuta, ovviamente stando attenti che le nostre credenze non si ribaltino sull'altro, quindi perché ci è piaciuta, poi dividere come al solito tra domande tecniche: cosa ha fatto lei prima, chi ha seguito, che clienti ha avuto, che tipo di portafogli gestisce. Abbiamo tutto il diritto di fare queste domande, perché molto spesso in realtà abbiamo un atteggiamento un po' di tale rispetto, tra virgolette, o un po' di, non mi viene adesso il termine, soggezione, esatto, brava, che ci portano appunto a non volerci sbilanciare anche in questo senso. Invece abbiamo tutti il diritto di farlo, per cui partiamo anche da questa assunzione, da questa consapevolezza. Esatto. Come dice sempre mio amico, lo racconto tante volte, Nicoletta, Marco Fratini, che è un collega con il quale ho lavorato per tanti anni, adesso è il capo della redazione Economia e Finanza della Sette, lavora con Mentana. Le banche o comunque le società di consulenza finanziaria non sono delle chiese, ma sono dei negozi, quindi negoziate, trattate, e non c'è tutta questa soggezione da mettere in campo quando si parla del nostro denaro. Sentiamo che ne pensa Fulvia da Firenze. Buongiorno Fulvia, benvenuta. Buongiorno, grazie. Io volevo parlare di un atteggiamento che mi succede da anni e trovo molto irritante, sia quando ho provato a cercare un promotore extra banca, sia quando parlo con le persone in banca che poi con ciclicità cambiano, quindi periodicamente ti trovi a parlare con persone nuove. Io faccio la casalinga, mio marito lavora e io mi occupo dei risparmi di famiglia. Quando vado a parlare, dopo un po' mi dicono: ma ci presenta suo marito, ma suo marito che dice? Ma non vieni col suo marito? Io sono convinta che se andasse mio marito, che non si occupa assolutamente di queste cose, nessuno gli chiederebbe mai venga che con vuole sua moglie. La moglie. Fulvia, guardi, non solo è irritata lei stamattina, qua l'irritazione si è propagata tutta a questa stanza. Senta, le posso chiedere gentilmente se mi scrive la sua testimonianza un pochino più articolata, con qualche dettaglio anche, a cuoredenari@radio24.it, poi io le spiegherò in privato perché mi serve. Ha voglia, Fulvia? Con piacere. Di spendere un po' del tempo con me, poi le racconterò le motivazioni per cui appunto ho bisogno di qualche dettaglio in più. Luisa Bagnoli, sì, che cosa ci racconta? Sono emozionata parlando di emozioni, nel senso che sento proprio anche insomma il dispiacere della signora. La posso consolare solo con la statistica, nel senso che purtroppo i numeri parlano, siamo un paese che deve aprirsi, deve essere open mind. Nell'open mind molto sarà legato alla figura femminile. Questo non sta avvenendo ormai, visto che parliamo comunque di numeri, a me piace parlare di numeri anche quando parliamo di HR, di risorse umane. I numeri dimostrano che il paese migliorerebbe con più donne al lavoro. Questi atteggiamenti sono bruttissimi, dolorosi, occorre però perdonare, nel senso che non possiamo fare altro, però al tempo stesso io ti perdono perché hai una cultura che hai ereditato e non sei capace di agire sulla tua cultura, ma vado da un'altra parte e, certo, e troverò chi non ha questa cultura. Allora, adesso voglio proprio capire che cosa ne pensa di essere accolto in questo gineceo questa mattina. Maurizio Mazziero, perché noi qua nutriamo il cambiamento, e come ricordava Lella Costa proprio ieri, esatto, quando parlavamo di Expo, insomma adesso la responsabilità torna a noi. Esatto. Maurizio Mazziero, lo salutiamo. È ancora membro tempo del... per scappare, Maurizio. buongiorno Nicoletta e i vostri radioascoltatori, buona giornata. Membro del comitato scientifico di IT Forum, per cui riportiamo la nostra trasmissione anche sull'evento che abbiamo preannunciato settimana prossima, tutti a Rimini per parlare di investimenti e risparmi, soluzioni di investimento, strategie di trading. C'è anche naturalmente tutta una serie di incontri un po' complicati dedicati proprio ai trader professionali. Mazziero, ci faccia il biglietto da visita di questa edizione 2015 di questo evento. Ah, è caduto pure, oltretutto si è scappato. È caduto, però intanto io volevo leggervi che un ascoltatore ha scritto: no, a me hanno chiesto di venire accompagnato dalla moglie, ci chiami. Ci chiami, infatti, magari lo chiamiamo noi, lo chiediamo adesso a Isotta. Anche lei, racconti la sua storia a Deborah. Certo. Senta Bagnoli, siccome lei che mi ha suggerito di chiedere agli ascoltatori qual è la prima parola che viene in mente pensando ad un consulente finanziario, ma loro lo sanno che tipo di emozioni suscitano nei confronti dei clienti? Glielo raccontano durante le vostre sessioni di coaching? Ho suggerito questa domanda proprio perché credo che possa essere una sarve, no? Se tu non sai cosa vuole il tuo cliente o cosa pensa della categoria, è anche difficile relazionare, perché ritorniamo all'ascolto. Quindi durante il coaching si scava molto, il consulente parla molto, non solo di questo. Sì, a volte vivono anche con frustrazione l'essere considerati una categoria magari non aulica, non colta e quant'altro. Cambierà, sono convinta, come tutto. Quindi poi nei casi singoli, infatti, la differenza fra un promotore e un altro si vede anche lì, no? Altro che. Maurizio Mazziero, ci siamo adesso? Sì, eccoci, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a voi in studio. Edizione 2015 di IT Forum, biglietto da visita. Ma allora, dunque, diciamo come partecipare. Allora, per partecipare l'evento è gratuito, l'avete già detto, si svolgerà settimana prossima, il 22 e il 21 di maggio al Palazzo di Rimini. Quindi per partecipare occorre iscriversi sul sito www.itforum.it, è possibile consultare naturalmente tutto il programma delle conferenze e creare anche un'agenda personalizzata con tutti gli eventi da seguire. Ecco, IT Forum, precisiamo, è un evento italiano che è interamente dedicato sia al trading online che anche all'investimento. Ampio spazio ci sarà per la didattica, ma anche tanti appuntamenti per gli operatori del settore, che troveranno anche un'area di consulenza con due zone chiamate Agorà che sono dedicate agli incontri. Ma potremmo magari dare qualche numero. Si tratta di 90 appuntamenti suddivisi in 4 macro argomenti: abbiamo il trading, l'investment e trading, consulenza finanziaria e l'investment. È una didattica di qualità che quest'anno appunto è stata selezionata dal comitato scientifico di cui mi pregio di fare parte, insomma. Ecco come argomenti partiamo da trading in real time, la didattica di base, quindi come si fa ad analizzare o a selezionare anche dei titoli, un percorso ad esempio sui trading system, che sono questi sistemi automatici di trading, e proprio si parte da zero sino agli algoritmi genetici, che sono un po' l'evoluzione darwiniana di questi sistemi automatici. Poi va bene, naturalmente si parlerà di economia, scenari economici e anche ospiti internazionali, quindi un programma davvero ricco. Noi ringraziamo Maurizio Mazziero, lasciamo tornare ai suoi appuntamenti di questa mattina, ma per chi volesse seguirlo naturalmente può candidarsi a prendere parte ad una delle tante tavole rotonde a cui presiederà lui e non solo settimana scorsa. Grazie Maurizio Mazziero. Vorrei andare subito ai nostri ascoltatori. Sì andiamo a Stefano. Andiamo a Stefano. Ovviamente Luisa Bagnoli, essendo percepito che è toscana, ha richiamato un sacco di toscani e c'è chi dice che aspetta che si metta a cantare perché sembra la sua voce quella di Irene Grandi, pensi un po'. Stefano. No. Va bene, allora andiamo a Stefano. Gliele canta però ai consulenti finanziari. Un attimino ci provo. Buongiorno Stefano, benvenuto. Buongiorno, sono toscano di importazione, per cui non vale. No, volevo soltanto riportare un'esperienza che ho vissuto personalmente verso col mio istituto bancario, quindi non con un promoter, ma dove mi sono ritrovato a vivere durante un periodo di 5 anni il fatto che la banca, per questioni probabilmente di organizzazione interna, ha cambiato il mio referente a cui io dedicavo il mio tempo per vedere appunto i miei investimenti, come gestire il patrimonio, e hanno sottovalutato l'impatto enorme che questo ha secondo me nella clientela, almeno questo perlomeno in me, per cui ogni volta dovevo ritrovare a a ripartire da zero nel costruire una relazione anche di fiducia, dove devo esprimere i miei timori, le mie paure, i miei desideri, no, rispetto al mio capitale, certo, che è piccolo. E questa cosa qua mi ha messo in una situazione di estrema tensione. Ho scritto alla fine al direttore della filiale. Ha fatto bene, allora, Stefano. Si è mosso qualcosa e finalmente adesso ho una persona che è straordinaria, che mi segue ormai da 2 anni. Però volevo sottolineare questa importanza della costruzione ha della fatto relazione bene Stefano, ci faremo una bella puntata perché è un tema che ci interessa molto. E poi lui dice: ho costruito una bella relazione in 2 anni, perché ti accompagna in una pianificazione familiare adeguata? 2 anni non sono niente. Se te lo cambiano continuamente non va bene, forse qui magari bisognerebbe orientarsi su un altro tipo di professionalità, o un promotore, un consulente indipendente. Sulla banca abbiamo qualche dubbio in più che possa riuscire a costruire una relazione stabile. Bagnoli, in 30 secondi una conclusione sua. Sì, appunto, qui il vantaggio al limite anche del consulente finanziario, se lo vuole vedere, è quello che se si comporta bene può veramente vivere di rendita dopo che ha costruito per 5-10 anni. Certo. Ecco. Andrea voleva raccontarci che è un promotore finanziario e convoca sempre marito e moglie quando deve stabilire per una famiglia una pianificazione finanziaria. Andrea, ci piace anche, purtroppo, che ritorniamo domani, ma dobbiamo chiudere la trasmissione. Io non ci sarò, ti lascio sola. Va bene, a lunedì torni. Buona giornata a tutti.